prova 1 2 3, 1 2 3 stella. Le 10, c'è qualcuno? Attenzione, ci va con sul 10, attenzione. Attenzione alle 10, c'è qualcuno? Attenzione alle 10, c'è qualcuno? Attenzione alle 10. Bella, Franco, vabbè. Ah, ok, sto provando un Elbex 2200, voi mi ascolti, microfono normale. Ma questa è una bomba, eh. Va bene. Quindi sono benissimo, segnale buono, radio buona. E segnale com'è? Buono lo stesso. È vecchio, me l'hanno dato, però non c'ha l'FM. Guarda, io ti dico, sono entrato a Castello e domanda smitto 1930. Quindi va bene come apparecchio. Benissimo, benissimo. E vabbè, non c'ha l'FM, ma non me ne frega niente. È bello perché è piccolo. Per la macchina va bene. Cosa hai detto, Cristian? Per la macchina va bene. Sa che non lo fanno più questo qua. E vabbè, ma se siete per ricordo allora, fatto al museo. È un bel vecchiotto, eh. E vabbè, ma me l'hanno dato, mi hanno dato questo, mi hanno dato degli ampetti. Non pensavo che funzionasse, adesso l'attacco a questa funzione, se funziona. Ma ho visto che sta andando. Ma pensavo che è bene, non è mai... La rete è buona. Perché non ho visto la cartella? Vabbè, devi considerare che il microfono normale è questo. Il microfono normale esce bene. Benissimo anche. Ah, il problema è che questo non prende QRM, capito? Il problema è meglio. È meglio che non le prende, solo non c'è FM, va a fa' Napoli, sì, vabbè, ma non me ne frega niente l'FM. Ma io l'FM ce l'ho, ma non l'ho usato mai. Ma ti sento gracchiante, come mai? C'è il microfono che sta gracchiando oggi. È il microfono deve essere, sento gracchiante. Adesso come è meglio? Adesso ti ascolto bene. Adesso meglio? Prova. Adesso come? Sempre gracchiante. C'è invece qualcosa nel connettore dello spinotto, perché lo stava facendo anche a me quel problema. È da controllare, non voglio controllare niente adesso. Sì, vabbè, da che uscito. Io sto utilizzando, guarda, questi microfoni preamplificati sono una rottura di palle. Guarda, questo è tipo l'M300, forse è il cocumeri, eh. Ma ce l'ho io l'M300 qua, non lo sto usando, l'ho usato l'altra volta, ogni tanto gracchia, c'è lo sliver partito. E mi si è trovato un microfono questo qui, io me lo prendo per il 78 Plus. Beh. Però fanno ancora, speriamo. Aspetta che lo voglio pilotare con quei lineari col 767 come esce. No, ma 767 dai. Cinimo e andiamo! Che? Lucchetta, che bello che sei! Dai, Cristiana! Dove senti tu? A bomba! A tua bomba? Se tu sei al monte io sono in piazza Castello! Esaventra, ti ascolto bene, Cristi, arrivi benissimo! Penso anche tu mi ascolti bene, penso! No, per cosa è benissimo, va tranquillo! Anzi, no, sta bene! E allora già va bene, dai! Ecco, c'è anche il prato California, pure, sto parlando con un baracchino piccolino. Io l'ho sentita, Franco. Io l'ho inteso. Voglio andare a casa. La casa dov'è? Cristian. Vieni, Franco. Guarda, adesso è staccato, E fai il passaggio, qui c'è anche Luca. Adesso è staccato, adesso sto uscendo liscio, guarda, 1, 2, 3. Attacca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stai saturando. E saturazione sta andando. Guarda adesso. E saturazione è parecchio. Vuol dire che non è fatto per questa radio. Così meglio va. Sì, meglio. Ma te, scusa. Sì, meglio, meglio. Invece attaccato va in saturazione, così è. Sì, va in saturazione. Vuol dire che sta dando più di 5 watt. Capite, per quello che lo sta facendo. Adesso lo piloto con un altro, a vedere. Guarda un po', 1, 2, 3. Sento un po' saturazione, meno ma saturazione. Sempre saturazione, la radio si mangia, dai. Esatto. Ok, ma questo invece va meglio così. Ciao Luca, buonasera. Ciao Giofra, vita mia, che è bello. Aspetta un attimo, stavo prendendo un telefono, fra. Terzo controllo, beh. Ok, dai. Aspetta, Cri, dai, adesso quello negavo tutto. Che fischia? Guarda questo, Cristian. Che passaggio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sempre bene, dai, una bella radio. Questo va meglio dell'altro? Questo è staccato adesso, eh? Sì, sì, questo è meglio dell'altro come radio. Ok, dai, aspetta un secondo. Guarda adesso, 1, 2, 3, segnale, com'è? 1, 2, 3. Sì, adesso può essere, la radio è aumentata. Aumentata la radio? Sì, aumentata. Beh, questo è un altro amplificatore che stavo provando. Segnale buono, sì. Sempre numero 3 da qui arrivi. Vabbè, quindi siamo troppo vicini, quindi non... Non c'è paragone di provarlo, capito? Bisogna provare, tipo se che sono io portatore, capito? O facciamo così lontani? Stavo verificando. Questo è un altro amplificatore, stavo provando, capito? Questo non satura almeno, dai. Vabbè, ma questo è tutto un altro, è tutto diverso da quell'altro. No, ma ne ho un altro, c'ho il 737, il 767 e l'altro il B150 anche. Ce l'hai 47, non ce l'hai? Il 767 c'ho, della CTE, HF. E il 47 non ce l'hai, 747? Diciamo che è uguale, solamente che c'ha minima e massima potenza quello lì, capito? Non è male, allora va bene. Vabbè. Hola, hola, hola. Vabbè, erano fermi, capito? Quando tu le lasci ferme le cose si rovina, non c'è niente da fare, bisogna sempre usarle e si conferma. Ma quando lo finisci uno cosa tratti, va? Infatti Giulia, non le va la candela, spendere soldi, per carità. Non spendete niente, non spendete niente, risparmiate. Ah, io non devo spendere niente. Questo è poco ma sicuro. Io mi speso abbastanza per adesso, poi... Ecco, fatto da nuovo. Tu piccolino, che ho fatto da nuovo? Chi è tuo piccolino? Io. Ah, e ciao caro. Ciao, buonasera, per il titto. Allora, come andiamo? Aspetta che si muovo. Mi sto controllando. Si vede la bozza. 1 e 4. Dava. Ciao Antonello, buonasera. Ciao Franco, buonasera anche a te. Hai visto che mi senti anche tu, quindi? Meglio voglia che ti ascolto, ci mancherebbe. Io ho detto, ma sicuramente Antonello non mi ascolta. No, già ti sente, voglia, ci mancherebbe. E a me che non sente, ma, fra. Già ti sento anche a te. Tranquillo, mi sento tutti. E mi hai sistemato a stare l'antenna, Luca. No, volevo solo tarare, ma adesso vediamo, uno di questi giorni. E la mia l'avevo buttata laggiù, anche le palle piene di queste stazionarie che c'è. La butto giù, la pulisco e piglio quella che c'era lì alle lunghi 7 metri di antenna, 198 euro costa. Prendo quella e fanculo. Cambio palo. E almeno c'ho antenna nuova, palo nuovo e aggiovito di rompermi le balle. La mantova la metto giù in garage, tanto la giocata me la pulisco. Fai bene. C'era l'altro giorno, c'era la mantova 1 e la mantova 5, 100 euro. Ma basta mettere un'antenna di gomma, che va bene lo stesso. L'antenna di gomma non è buono, già... Cosa devo stare a sventiare? Cambio capo, gli acciolo del VG 213 ancora a piazzare qua, buttato. E con l'antenna di gomma non esci, perché? No, l'uno delle antenne di gomma è quella... la bibanda che c'ho, VU. riprendi tu Cariello? Sì, infatti che sto pulendo il vostro telefono, fra. Sto lavando la colla perché ho ordinato il display. Capa di positivo. Allora rilanciamo tutto a coso, a Cristian. Vai Cristian. No, ma è cambiata antenna, sto che ci sono, già vado bene ancora. A te guardami il rapporto di segnale con questa radio, come sto arrivando lì da te. Pronto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova 1, 2, 3. 9, 20. 9, 20? Vabbè, questo è il 48, E ti sento benissimo, a voglia. Ed il radio va a me, va bene, sì. 5, perfetta, chiara. Cappa, Cristian, da te com'è? Sempre 9.30, sì, radio 5. Certo, sempre 9.30. Ora, ora. Vai, Antonè. E allora? Io sempre piccolo ma sincero ancora. Piacciavano questa antenna piazzata sopra. Un radiale, anzi due radiali me ne erano scesi, uno l'ho recuperato, l'altro non so perché l'altro ci sia uscito, adesso in qualche appartamento. Questo Antonio è morto al 16.69 di finale, capito? Ce l'ho. Cava di positivo. Ce l'hai quanti watt da questo? Ora, 25 watt modulati da. Ehi, c'è buono. Questo neanche bisogno di amplificatore, ciao. Cosa ne fai amplificatore? Mi dici uno, va. Il mio, questo che ho qui adesso, il CTE, è spento, figurati. Ma quello che c'è tu adesso la stai utilizzando? Nulla, l'ideale è staccato, l'altro apparecchio è giù da mia sorella e... è stato l'eco giù e anche il coso, il Connex 4000 è a casa sua. Antonio, vai sul 45, lo voglio provare in 45, come va? Via. Sono entrato. Sono anche io. Ci sono? Via, ci sono anche io. Stavo cercando, per qualcosa ho trovato il frontalino del... è tornato 4005 originale. Non pensavo, era di un apparato che avevo regalato a Battistino, a Giaguaro, quello di carica, insieme al microfono amplificato. Aspetta un attimino, che Cristian ci sei? Sono. Cristian Cimari, boh. Esce male, non lo so perché. Il microfono di merda, chiamo la copia un microfono adesso. Adesso mi senti meglio? Luca! Adesso sì, ma dovresti sfruttare tanto un po' di quel prodotto del PTT. È da lì che proviene quel rumore. Molto probabile, adesso ho smaltito questi giorni e me lo pulirò, dai. Mi dà la bulletta della Rusi, 419 euro. Che voglio sto voi? Cosa va attaccato? Luca, cosa c'è attaccato? È un'industria. Cosa ne so, Fibbo? Non lo so. Io non riconsumo luce. Qua la lampadina è a LED. Qua c'ho i LED che li uso attaccati all'alimentatore. Ma anche non consuma nulla. Computer cosa consuma? Nulla. Televisore a LED. Non lo so. Ma da casa mi arriva di solito 200, 250, ma io ho la tua clave. È posto, è pompa di calore, è quello, è saldo, è molo, capito? Ma... siamo poi esagerato. E ci sono state consumate in due mesi 1200 kilowatt. Prendi, tutto va bene, vai. No, ci ha chiamato, tutto normale. Che cazzo ne so, pagando a voi, scade a marzo, però paghiamo, tipo ti dico. Una volta avevo pagato un paio di mesi fa, forse l'anno scorso, 465 euro di luce. Vabbè, è strano. Lo so, è strano, ma il là è lì. Aspetta un attimo, guarda che devo mangiare questa bestia. Allora bestia, un bel animale, dai. Ciucca, ciucca, ciucca, ciucca. Miau, miau, miau, miau, miau. Cosa c'hai, Aria? Cosa c'è? Dimmi. Nulla c'è. Ci mancherebbe. Ma allora c'è un po' di sclero, se ne vuoi te ne faccio un pochettino, fa. No, vedi, già basta quello che ho io, cazzo da ieri. Discreto. Sono andato a fare... a installare un coso, cazzo, mi sono trovato ora un amplificatore senza l'alimentatore giù. Il cavo sbagliato. E quindi tra una cosa e l'altra ho perso fino alle 4 e mezzo di ieri sera. Hai capito, tra una cosa e l'altra. E quando ho fatto l'impianto a te non lo fanno la cazzo di cane. Poi quando non riesco a cavare di piedi allora chiamano a te, capito? Senza dirti nulla. Di cavo vecchio e cose del genere. Adesso ci devo andare domani con un altro amplificatore, perché quello che ha messo evidentemente è difettoso. Perché l'alimentazione è su sale, cioè i 12 volts. Solo che giù non vedo niente. Il bello è quello, hai capito? E quindi si è fatto un amplificatore. Adesso domani devo salire con l'amplificatore un altro, fare la prova, scendere di nuovo giù, farmi cazzo, 7 piani di scale, ma cazzo che te ne faccio di legna con la scala, cazzo. Guarda, per l'antenna già me lo faccio io a casa, non ho problemi, perché me lo so fare tranquillamente io, non cerco nessuno, però va. La gente, capite, vuole risparmiare, cosa fa, si compra l'antenna nella televisione, dice piazza questi due cavetti, questo lo piazza nella VHF, l'altro lo piazza nell'UHF, e non è che pensa che sia un amplificatore, pensa che sia un miscelatore, capito? Ha preso, ha agganciato il primo cavo che ha visto e quando sono andato giù ho piazzato l'alimentatore, cazzo, stavo sopra e non c'è la tensione, cazzo, ho detto non è possibile e il cavo era sbagliato. Allora ho preso un altro cavo che c'era di una parabola che era lo stesso sua e ho visto che adesso la tensione su ce l'ha. C'ha i 12,6 volts tranquilli, però giù non si vede un accidente lo stesso, quindi deve essere che l'amplificatore che ci ha messo deve essere qualche recupero di bondezza. Sono parcheggiato un attimino. Parcheggia. Sei vigili, già sono amici miei, non ho problemi, non ho problemi. Sì, non c'è problemi. Secondo il vigile che è appena assunto, per te che può dire che è lo stesso, altro che noi. Finché ne conosci due o tre, sei tranquillo, conoscono la macchina, ma se che tu vedi quelli appena assunti che vogliono fare carriera, come ti trovi senza macchina giù. Tranquillo, già erano quelli gli anziani che mi interessano, che mi sono ancora bene. Sai, tanta giubilo io di quei vigili, vabbè, li ho conosciuto vigili urbani, non è che non l'abbia conosciuto. Anziani, quando hanno assunto i giovani, capito? Aveva la macchina direttamente il caratrizzi. Anche l'avvocato gli hanno fregato la macchina da sotto casa sua, perché la parcheggiata stava a garage suo, figurati, e ce l'è passo carrabile. E aveva lui da andare a protestare, dice, ormai dice, la macchina gli aveva proprio portata via, si arrangio, dice, venga giù a pigliare il produttore, se la ritira gli ha detto, fatta avvocato, capito? Non so, lo fanno, perché erano smania di successo in due periodi, sì, qualcuno conosciuto così in paese, cioè il successo è durato, 6 mesi, è abbassato la carta di colpo. E questi due assunti vogliono fare davvero, non hai capito nulla. Più mute metti, hai capito? E più si diverto. Secondo che tua moglie è passata la voglia. Non ha fatto solo più un errore. Ha messo la multa alla macchina del suo capo. Alla moglie del suo capo. Hai visto. Ma magari a Napoli cosa del genere non ne fanno, capito? Ma qua ci passano i vigili urbani a metterti la multa, che se no gli mettono fuoco la casa. Ha rischiato di essere imparato per il giudice di famiglia. Figurati. Che è successo anche altro, dai. Senti, capisco di più. È stato una festa. Uioi. Oh. Qua passa il volo. Cazzo, 60. Come telefonino. Andiamo bene, andiamo. Fatto hai. Famiglia, quasi finita, aspetta. Ehi, casa Verocca. E Cristian, chiuso. No, già è qui, Cristian. Oh, io le gambe, ragazzi. Gambe, braccia. Ieri mi sono massacrato, ragazzo. Portato la valigia piena di ferri, ragazzi. Ho dimenticato, mi c'è un accidente. Sì, sai domani non posso andare domani, è una giocata. Ma poi dopo fallo. Sai, faccio domanda di pensione, la biglia in culo. Mi fanno male i polsi e le maniche. Io faccio fra qualche anno dopo la pensione, fra qualche anno la faccio per la gamba, per la gamba sinistra. Oh, yeah. È un casino adesso per la pensione e fanno fare pochi di esami. Adesso non c'è un problema, dove è il disco, la schiena messa male nella zona lombare, questo frattura una gamba, il ministro da rifare altro pure. Allora puoi andare tranquillamente a fare la domanda di pensione. Capito? Infatti la legge 104 ti chiedono avere come stai, tu dici ascolti, non so manco come mi chiamo io. Si figuri lei. Io vado per il medico, non ho problemi io. Per farmi un medico la domanda di pensione, senza problemi, ma sui cuore non ho problemi io, vado tranquillo. Allora io ho fatto la domanda, mi hanno dato solo il 77% di valenza. Adesso vediamo un po' di rinnovarla. Di aggiungerci qui tre cose, tre mancanatici che ho avuto, quindi. Un bel tubo in testa me ne è sceso a me, di quelli in cemento, belli pieni, e mi ha trappato il capo in testa. Poi la seconda volta mi sono trappato il sopracciglio e la terza volta altrettanto, quindi ne ho tre. Sono aggravamento. Infatti, faccio quello, faccio, se la donna non se no, la faccio... vado con un coltello in mano, mi dico io non ci sono di testa, mi sono come immigrante, mi dico. Chi è il tuo medico di base? Nesole, ciò. Mamma mia, non so lo dice. Ah? E cosa con perché tu è come compagnia bella? Sì, 1000+ persone c'ha, e ne ha poca niente. Quando vai lì devi fare la fila fuori al freddo, in ghiacciaia. Il tuo umano ce l'ha tu il medico, vero? Eia. E mi ha detto che tu e ne sono il mio padre. E c'è Zucchetto, ce ne sono, c'è quell'altra. 4 o 5 sono. Due sono andati in pensione, meno male. I milioni. Unali è andato in pensione l'anno scorso. C'è rimasto Tocchetto, un Astrugo, Desole e poi un altro non so del nome e basta, mi sa, 4 sono. E a 4 sono, esatto, sì. Ma c'era un sacco di gente di Desole. Figurati. Ho trovato Tocchetto, perché è un filologo, se va tranquillo. Io, mamma ce l'ha da Astrugo, per carità. Quale peso sparata quella? Lì? Quella se la chiama a casa controllato non ci vede nemmeno. Viene con i guanti, viene. Ah, non la tocco io, non la tocco io. No, e infatti già gliel'ho fatta cambiare a mamma. Quando arriva a casa sembrava schifata a casa. Quando veniva, no, guardi, già ho visto, non posso, non la tocco, non la voglio toccare. Certo, giudito, ma che vuoi fuori? È macavero, giudito, da me. Infatti ho detto, ascolti, facciamo una cosa, se ne vai a fanculo, gli ho detto, a mamma gli do Desole, almeno c'è una persona come ci serve, Dopo la tua, guarda, non ho capito perché si sta facendo il medico, era meglio che faceva i pasticceri gira a gira. Veramente un medico bravo, tranquillo come medico, sono bravissimo, anzi, sono bravo. Già, già sono medici, Giulia. Bravo, non bravo, vabbè, il frate che ci sia. È bello che ha fatto. Andiamo, andiamo, cazzo. Adesso ho visto qualcosa, ma Roberto sta uscendo di testa, sta uscendo. Ma quando non si è fatto il vaccino, cazzo, il frigo vuoto, sta venendo tutta giù. E chi? Roberto Mandito. No, perché ha dieta. Laura, cazzo, ha dieta, vai. E no vax, lui già lo sai anche più di me. Evidentemente gli hanno detto di non andarci più a lavorare, capito? È rimasto senza nulla, senza stipendio, senza nulla. Ha tutto in dieta. Cazzo, ma tutta quella roba che c'è, sta tutta vendendo. Tra poco lo vediamo mutante, fatto che frigo vuoto. Hai visto quella macchina che si ha fatto, una macchina vecchia? Stava da 89, la sua sono male, roba di 30.000 euro. E la ponte, anche già lo so. Quella americana. E ci siamo visti, vabbè, te abbiamo chiamato anche, vero? Quest'estate, l'estate scorsa. Prima stava ancora lavorando di là. Quest'estate. Adesso, cazzo, l'ho visto l'altro giorno. Me ne sono sceso le braccia, cazzo. E si è venduto quella, si è venduto anche quella moto grossa, bella, che ci ha detto che non la vendeva mai. E adesso il frigo vuoto. Da quando senza stipendio, lì alla Ferrari è fottito, è meglio che si faccia il vaccino lui, se no lo vediamo, in cosa lo vediamo, vedrai. Sembra così, ma non c'è da scherzare, non c'è da scherzare. C'è un capo gubbo che fu già, già gli ho detto, infatti io. E tu mai fatto il vaccino, Robè? No, vaccino non me ne faccio. Non me ne frega niente, c'è bombetta dentro, eccetera, eccetera. Mi ha detto che prendi il posto del lavoro. E no. No, non me ne frega niente, adesso quando l'ho visto ieri con frigo vuoto, tu vedrai quando sarà la fame e va a farsi il vaccino, te lo dico io. È come quello che era Novax, che non si faceva il vaccino, poi è andato in televisione e si è fatto il vaccino. Dopo che prima si è fatto il vaccino, poi è andato in televisione alla Fininvest. Si è fatto il giro di TV, si è fatto. Beh, il vaccino purtroppo lo stanno richiedendo, lo devi fare sì, altrimenti è un casino grande. Beh. E cosa puoi fare? Via, Sant'Antonio mio, vabbè. E devo fare una cosettina un attimo, adesso sono qua, devo fare una ricerca su una scheda. Io li ho fatti tutti e tre, anche perché se no non posso andare a fare la spesa in farmacia e roba del genere, per Simona, capito, andare dal medico e cazzate varie, quindi li ho fatti per forza, ho rischiato, vabbè, mi è andata bene, adesso voglio fare i quattro vaccini a Simona, è già spaventata. Guarda, nessuno ha avuto nessun problema, perché mio padre è venuto anche un ictus, una setticemia, fatto lui, tranquillo, beata a casa, non c'è problema. A me di gente che si è fatto il vaccino l'ha preso male, capito? I ragazzi che hanno avuto la pene, come si chiama? Il mio cardito, quindi, o i bambini che sono... mi sembra 10 anni, che un paio ne sono morti, ma meno male stiamo facendo il vaccino nuovo, quindi se non si pigliano le pastiglie, basta prendersi le pastiglie rosse e se ne fregano del vaccino, prendono quelle e vaffanculo. io sono vaccinato, mi dico vaccino che ho il tocco laterale, ma tu fai mal di testa, il secondo giorno, ma niente di che, come è passato, niente di normalmente, ma... Allora, a me mi ha fatto infiammazione ai denti, la gengiva, ma poi un po' di mal di testa e poi mi faceva male la gamba, una gamba in pratica, un dolore. Adesso ha detto vaccino, invece mi ha indebolito i muscoli, capito? E lo sento subito, lo sento. Quando faccio dei lavori mi fanno male le braccia, mi tira, mi capito? Mi tira i muscoli e le articolazioni mi tira. E dopo non ci posso fare niente. Mi piglierò qualche cosa, qualche medicina, cosa ne so, per i muscoli e quello che è, in modo che tornino normali. Guarda, io ho un problema in ginocchio, probabilmente un attimo, 2 anni sono a parlare al ministro, alla protesi, passano 3 anni devo parlare per forza. Poi del resto, la schiena ormai me l'ha andata, me l'ha andata. Ma hai fatto sai cos'è? Che c'è, ci sono gli ospedali che sono tutti, la maggior parte sono tutti vuoti quelli delle cose, quindi tutta la zona di Cagliari mandano a Cagliari, tutta la zona di Sassari, la provincia di Sassari, tutti qua ce li stanno portando, e quindi ormai interventi eccetera eccetera non stanno più facendo l'ospedale civile nuovo. Sono arrivati anche gli ispettori, figurati tu. Saluco, vedrai che troveremo la gente in barella fuori. Già ce l'hanno messi dentro quei container l'altra volta. Andare lì è un troiaio. Se non sei fortunato che fai 13, che entri subito. È un casino, c'è troppa gente. C'è. Allora, grazie a Dio, per lo male, un medico che è bravo. Di spinaglio. Ho capito, e meno male, grazie. Purtroppo in questo caso quello di Covid, tutti qui ci stanno mandando, tutti quelli della zona nord di Sardegna, tutti a Sassari, insomma, infatti è pieno a Sassari. E così anche a Cagliari. Ci abbiamo qui gli ospedali di Itiri, che è vuoto, quello di Tiesi, che è vuoto, eccetera, eccetera, nulla, se c'è l'identica cosa, poi mancano i medici, mancano gli infermieri, a me non voleva essere assunti, cazzo, siamo stati tranquilli, invece nulla. Sono preparato a me al ginocchio nel... non so quanti anni è, ma sono già passati parecchi anni, forse una quindicina d'anni. È morto, mi sembra, l'anno scorso, Muras. Figurati. Ui, stiamo andando bene già. No, ma bruciati è Muras. Sei tutto a scarichi adesso, sei, con quel microfono. Sto camminando adesso. Allora, a me mi ha operato, Muras fa bruciare. Ma dovresti passare le cerecine al console del PTT. Il microfono lo so fare io, meglio che lo faccio vedere che niente esperta, che è molto meglio. Sì, niente esperta. Quindi un po' di CDC, apri il microfono, c'è quel pulsantino all'interno, c'è un pezzettino dietro dove è aperto, gli spazi per il CDC, tanto ci sono delle lamelle. Una molla piccolina, dopo aver spruzzato quello, premi 3-4 volte in modo che si pulisca l'ossido e vedrai che quella cosa sparisce. Adesso io la farò fine settimana, io la farò lo sabato perché domani sono tutto il giorno a lavoro e devo spaccarmi le chiappe che arrivano i camion. E allora farlo sabato, domenica, ma almeno sei tranquillo. Ma se non vuoi trovare qualche impatto, bambino, pavimenti, occhiamento, poi con mio. Quindi è tutto incasinato, sei là? Ah, meno male che il mio collega rientra il 28, ma proprio. Meno male, meno male. Sì, non lo conosco più. Già, per ci fare la voce di capo. Ma in quanto? No, no, no, è quell'altro. No, no, no, c'è quello, c'è quell'altro. No, no, mi. Perché l'hai fatto? Fatto. Basta, Quando la vuole troppo è troppo, meno c'è nulla da fare. No, ma tu hai pensato, ma fatto pure anche l'altro. Cioè, ti ha pensato a facendo di testa, vai. Sì, è uscendo di testa, stai uscendo, vai. Sono fuori come? Come un colombaccio ha preso con la carabina. Ah, sì, mi domani mi gioco, faccio lo sport nazionale. Pucca, che fine hai fatto? Avanti 10, c'è qualcuno? Hola, hola, hola, hola. Che cazzo di... che cazzo... Canto, ma... avanda, beh... Il cazzo di errore, metto tutto canto, ma... Attenzione 10, K. Andiamo, andiamo. Ma non è manco visto. Ora, ora, cazzo, a 1 e 1 a faccia del stazionario, Ah, pure io. 1 e 1, 1 e 2, dai. Cappa. Io so che te attendi. Vabbè, tu stai usando la metà della mia potenza. Sto usando 6 watt, 5 watt sono, dai. Quando guarda a fischiare sono 6, ma comunque sono 5. Cappa. Io uso qualcosa in più, ne uso. Adesso vabbè, non lo sto spingendo più di tanto, capito? Perché non le tiro mai io, non gli tiro mai di godo alla radio io. Sono sempre Sempre di meno. Sta andando benissimo. Ma comunque, sai cos'è? E quando piove un po' salgono, tendono a salire. Già lo so, già lo so. Ma io no, non glielo tiro mai il collo all'apparecchio. Guarda, se voglio, guarda, a me pompende. Guarda. Vabbè, qua non si nota. Poi sta attenuando già. Attenuando sì. Gappa, ma io... Ora, ma così non mi piace. Ecco, ora, di meno. Così va bene, no, non ve ne dirò, io godo. Infatti lascialo così, tanto. Gappa. Non mi piace, cioè, anche se può andare, però. No, se va, tranquillo, lasciamo così. Scappa, quel 747 che ho preso è un gioiellino, non scalda nulla. Però l'hai comprato? Non l'ho comprato, ce l'ho proprio in magazzino. Ma quello lui me lo tengo, cavolo, ne ho già venduto due. No, pure un terzo, no. Io sabato lo ritiro. Cosa? Sabato lo ritiro. Ah, l'ha già contattato? Sì. E cosa ti ha detto? Sabato. Ah, va bene, va bene. Ma com'è che aggetto? Guarda, il mio la verità, l'ho tenuto, è importante. Bella aperta, non scalda nulla. Mi sa che gli pongo pure una ventolina sopra. Non c'è bisogno da me. Adesso lo vediamo. Allora farò la prova. Speriamo di non fare TV hai. Non penso. Non ti abiti subito dove? Alla fine poi sono 104 d'oppa, poi 80. Che roba. Sono tanti. Meglio di adesso. C'è peggio. Cioè, papà ti contavi, vabbè. Tanto matti incidono parecchio. Ecco cosa bello. No, è un amplificatorino da tenere, la verità. Vedi così tipo prete. La nuova Ferrari uscita. La nuova Ferrari uscita. Chissà che almeno vada forte. Ma la Formula 1? Cappa, è una nuova macchina, completamente nuova. Speriamo che almeno vada forte. Tanto è bella che almeno vada forte. Non l'ho vista. Cappa. Da quest'anno vanno a betanolo. La vanno? C'è una sostanza mischiata che si chiama il betanolo. Ma come cosa? Come carburante? Eia. È bio, dai. Un po'. I motori spingono tanto. Speriamo che almeno vada forte. Tanto è bella, speriamo che almeno vada forte. Mi auguro solo quello. Poi io non ne guardo. No, già lo guardo io. A gusti. Magari tu non guardi le partite come le guardo io. Scappa. Non mi interessa le partite. Ma la Formula non è che mi interessa. Preferisco di più il motociclismo. Beh, pochissimo le fa durare il ballo. Il motociclismo, te ne a me. La MotoGP. MotoGP allora. Come sai che Valentino Rossi non corre più neanche? Finito. Non rimasta, ma io non è che avrei smesso da adesso, no? Anche per non fa brutta figura con questi giovanotti. Avrei smesso già da tanto. Ah, beh, certo. Oramai ci sono questi giovani che non tolgo niente, ancora c'è di avere la prestazione, però non si passa, è corso già troppo. Ha avuto il mondiale, ha avuto la sua vita, boh, basta, con la duta che c'è la famiglia tua, cosa non posso lasciare stare. Sì, se non voglio dinare. Cosa? Penso che non voglio dinare. Ma appunto, adesso avrei pensato a mia moglie, a miei figli, da Bilincuro. Max Biaggi, penso che ne abbia finito a Roma stessi. Che poi è andato in un'altra categoria e cosa, mica si è rabbinato. Dalla volta che si è fatto molto male penso che l'abbia smessa. Che gli hanno fatto i soldi? A voglia. Diciamo che alla fine è un rischioso, molto rischioso, vabbè, anche il calcio. Ma no, quelli corrono un bel, la Formula 1, cazzo, quelli corrono un sacco, un bel. E vabbè, comunque. Già va bene. Qui già girano i miliardi, Antu. Capo. Guarda, per me l'unico intelligente lì è stato Rosberg. Ha vinto il mondiale. Basta. Già arrivederci, se sta con la famiglia. No, non ha continuato. Già anni fatti. Ma sì, infatti non conviene manco continuare da voi un poco, perché poi ti vai gli suermi, sta provende, ma prima o poi già c'è stato Verstappen che gli ha tagliato le gambe. Già. Ha vinto lui il mondiale. E come aveva mai c'hai bidati con ragazzini? Che a confrontate so capisce i bidati. E non gliene frega niente, no, molla tutto. Ah, vabbè, frega niente no. Capo, è andato e ha vinto Verstappen, ma perché? Perché l'ha picchiato in pista. Chi te capisce il bidardo? Non va nulla a bilimmi. Tu hai vinto otto mondiali, ma cosa vuoi? Non ti basta lì. Infatti. Così, vabbè, comunque. Ti stanno bene, Antu, ce ne fregano di noi. Ma appunto baghizzo, da che mi aveva fatto l'udanto mio, aveva mollato tutto, cioè tanti auguri, arrivederci. Per il resto della vita avrei vissuto bene. Vabbè. No, ripeto, stanno bene e se ne fregano. C'è già un grido che intendi a freddo. Perché? C'è un cenaglio aperto. Hai detto cuvè. Chiappa. Adesso già si sta bene. Chiappa, secondo me anche i calciatori quando arrivano a quella, tanto guadagnano un sacco di miliardi. Ma cosa di una puta, ma vai, ti occupati di altro. E lascia stare. Vabbè, ma loro devono giocare, non è che devono giocare quando vogliono loro, no? Purtroppo devono giocare. Poi ovviamente anche loro vanno in pensione. Capa, no, ma dico, quando arrivi, per esempio, già, ma io già 39 anni, abbiamo mullato tutto. Vabbè, tutto dipende da loro, mica lo puoi fare, lo puoi decidere tu. No, la mia carriera la decido io, non la decidi tu, no. Se io ti dico basta e basta, no, non è gustino. Fa pila Ronaldo, ti mi riarriva. Non lo so. Però la mia carriera, la mia vita la decido io, non la decide nessuno. Se io dico che per quella stagione ho finito per sempre, non mi interessa. Certo. Avevo fatto vado un bel di là e non ando più a travagliare. Vado un bel di là e ando ancora a fare le cose. Ma lascia perdere, mollami un gabbo. Fai lavorare i giovani. Largo i giovani. Troppi quarantenni ci sono in certi sport, dovrebbero lasciar perdere. Sono non so, quanti anni ha Valentino Rossi? Valentino Rossi è mal nome. Quanti anni ha Valentino Rossi? Valentino Rossi ha 43 anni. 43 anni, certo. È più piccolo di me, da come di anni, va. Mannito, 43 anni, ancora cura motto. Ma non lascia perdere. No, questo che ha finito. Ma chi si andrà in altri sport dopo che finiscono lì, nella categoria regina? Oh, la mola me, coglione. Almeno ho stato con mia moglie io. Che paga? Vabbè. Oh, yeah. Che non fa, ma me la fai, no, me l'ho fatto con la mia famiglia. Mi fanno bene molti, ritirati, ce ne stanno con la sua famiglia, tranquille. La moglie, la compagna era pure incinta, era. Quindi magari me lo faceva altro cammino. Infatti. Che non fa, ci sono tanti giovani di belle speranze, ce li facciano correre. Bisogna iniziare da giovani, tipo lo scalcio, 18 anni, anche prima di 18 anni. E vabbè, purtroppo tanto siamo una di Bovari e ci dobbiamo restare così, schiso super ricchi. Noi sì, purtroppo, non abbiamo avuto la fortuna. Ma tranquillo che se ce l'avrei avuta ma uno spiraglio di fortuna, avrei abbigliato tanti saluti, non avrebbe tornato a travaglio, avrei detto ma cercati un altro e fatti buttare da un altro, io non ne ho bisogno. Fatti furugia. Ma appunto, non sono di quelli che... non voglio niente, non ne ho bisogno, cioè se avessi avuto soldi e macchine come cosa, no? Avrei consegnato tutto a te, vivo con i miei soldi e basta. Certo. Invece c'è gente che ne ha abusato, ma ti pare possibile? Lo so anche. Se io non ho il lusso me lo tengo, cosa me la futti di andare lì a... Avevo l'ultimo, la mitai e sto di Ronaldo. Ma appunto, uno guarda, nulla, li cazzati, la gente rompe balle, si fa la sua casetta, si fa la sua vita, e ciao a tutti. Vabbè. Ho visto che ha vinto 69 milioni di euro a Sassari. Chi ci dà se la bassa nei meggia? Chissà che cacchio è. Ma quante vincite però avrebbero dovuto dividerle un po'. Non andate su una bassona. Infatti. Adesso c'è 156 milioni di euro ci sono. E non vivi bene con quello lì. Ui. A me me l'ha levata di qua tutta la vita. Ma pur 5 milioni di euro, se te dici ci stai bene. Adesso abbiamo fatto, tanto cosa che tu mi ne vuoi studiare il cittadino? Ma aveva un po', una bella parte a me. Una bella parte era data a mia sorella. Che cosa, babbo? Ti ha avviato un cazzo a nessuno? No. Mia sorella, nei momenti difficili mi ha aiutato, e quindi chi doveva che cosa me l'ha data, devo essere riconoscente. Ma ci ha aiutato tanto, perciò niente per nessuno, tutti per me. Certo. E vabbè, tu c'è una situazione diversa. Non so gravaro io, ma a me già mi passano. Un po' di chissà arancione. Cosa arancione? Biglietti. A me già mi passano, avendo una cosa un'eredità del genere, me la ne passate. Ma tanti no, ma bastano, guarda, con 5 milioni di euro campi. Voi campi, ma tante cose avrei fatto. vai alla grande, poi se fai lo spaccone allora no. No, devo andare piano piano, devo andare, non devi far cazzare. Io credo se mi avrei fatto un mio giusto bappa a vedere così, che ti prende qualche cosa lui, capito? Un po' careddo di, come ti dite, di... Avrebbe su un locale notturno e mi lo travagliendo in gioco così. E mica per andare, ogni addanto, però basta mai di vicino, mi bello per andare al locale mio, no? E andare a travagliare, no? E non mi sono dipendente. Una cosa così, per coprire, capito? Copriocchi si chiama. Hai comprato un bel materassino con un motore? Certo. No, giusto per coprire gli occhi, capito? Mi avrei aperto un bel localone, grazie, ma di lusso, e poi per andare a lavorare la gente, ma è giusto per coprire gli occhi, mica ne ho bisogno. Beh. E magari per tenermi un po' occupato, mi. Beh, se poi ti annui. Capa, a fare di là, curi di là. Perché se spendi non entra in un casino, devi spendere e guadagnare. Vabbè, così mi giusto fa, ma tenimi occupato, dopo che andano a giugana non vanno nemmanco qualche borsa. Però sempre sott'occhio da qualcuno, non si sa mai me lo fa andare male. E che ne c'è con gatto? Zero quasi stazionaria. E forse come ha preso acqua, lo fa anche a me. Cappa, capito lui? La vento è entrata, icca tu sei entrata, che ci sono avventato parecchio. No, non si intende. Perché va piano piano. Non si sente? Sento un'altra avventa, ma non è da parecchio. Cappa, non lo scalda. Prima volta che scalda. Ma attenzione, quello alimentatore cinese. Ehi, vanno bene. Però ho cambiato, ho messo l'altro che è meno rumoroso. Ma tu come ce l'hai? Come il mio, no? Modificato come il mio, no? Non lo tocco io, no. Come l'originale da casa. No, questo non mi piace, no. No, me lo sono modificato, ho messo l'ingresso delle bananine, il capo dentro, no, non si vede quasi niente. Il tastino che ne spegni, l'interruttore della ventola. Ma per questa radio qua va anche troppo bene.